purtroppo è una strategia che i sedicenti movimenti per la vita, che andrebbero definiti movimenti contro la scelta, movimenti no choice, perché appunto nessuna è per la morte, questa è una precisazione da fare, purtroppo è una strategia appunto che questi movimenti no choice attuano da un po', cercano di riappropriarsi in qualche modo di parole uso corrente tra movimenti delle donne e movimenti femministi, chiaramente per aumentare la confusione rispetto a delle tematiche che già sono oggetti di dibattiti controversi. Insomma, riusano la parola femminicidio perché è chiaro che è assurdo all'onore delle cronache, no? Da almeno un paio di anni a questa parte, e quindi cavalcano un'onda che però è un'onda costruita da movimenti totalmente in disaccordo su qualsiasi punto appunto dell'agenda politica di questi no choice, pro life, come li si voglia chiamare. Io trovo assolutamente aberrante che non siano ancora stati rimossi, intanto questo vorrei dirlo subito, e mi unisco agli inviti di tutte le associazioni delle donne, appunto della Casa Internazionale delle Donne, in particolare di Roma, che ne chiedono l'immediata rimozione. Sono assolutamente mistificanti. L'aborto non è un femminicidio, l'aborto è semplicemente una delle tante forme con cui le donne scelgono liberamente se perseguire o no il loro desiderio riproduttivo. Non è assolutamente femminicidio, come non è omicidio. Adesso non è che se cambiano parola fanno diventare l'embrione una persona, l'embrione rimane un materiale biologico su cui la donna, che è l'unica persona capace di scelta, può decidere. È interessante appunto come movimenti che sono legati all'estrema destra e al fondamentalismo religioso, e quindi sostanzialmente spesso non riconoscono nemmeno la natura patriarcale della società in cui viviamo, in questo caso la utilizzano per colpevolizzare ulteriormente le donne. Assolutamente, è una strumentalizzazione del resto delle nostre battaglie, dei nostri corpi, quella che fanno i no choice. Sono sicuramente movimenti simili all'estrema destra, sono conservatori, sono reazionari, sono neofondamentalisti, ma anche fascisti, purtroppo. E dobbiamo anche ricordarlo che insomma questa ultima campagna in realtà arriva dopo una serie di attacchi che noi appunto respingiamo al mittente, contro i quali ci organizziamo appunto nei movimenti femministi poi tutti i giorni. Ricordo ad esempio lo striscione che è stato appeso da Forza Nuova, che è una vera e propria minaccia ai femminismi fuori la Casa Internazionale delle Donne, lo ricorderai anche tu, 194 strage di Stato. Quello striscione è emblematico, è un momento molto significativo dell'escalation dei cosiddetti movimenti per la vita, perché se fino a un certo momento il loro obiettivo politico è stato in qualche modo entrare negli ospedali, occupare dei luoghi che dovrebbero non essere confessionali, o l'entrismo nelle istituzioni, nei luoghi decisionali, a un certo punto però il loro obiettivo sono diventati i movimenti femministi, e questo chiaramente anche dovuto al fatto che i movimenti femministi sono molto incisivi su scala globale negli ultimi anni. Questo recuperare alcune delle nostre parole d'ordine e poi contemporaneamente raggiungere i nostri luoghi con quelle che per me sono delle vere e proprie minacce è molto preoccupante, e in qualche modo per noi deve essere però anche una sorta di enzima catalizzatore di altre battaglie. Cioè non possiamo attestarci sulla difesa dell'esistente, ecco, voglio essere chiara su questo. Cioè non possiamo dire, siccome movimenti di estrema destra insieme a cattolici, conservatori e reazionari tornano ad attaccare la 194, allora noi difendiamo semplicemente la 194. In realtà lo scenario oggi è molto più complesso di quello che sembra, perché il fronte no choice, pro life, è composito, e appunto ci sono dei pezzi molto estremisti che ancora stanno su parole d'ordine quali referendum abrogativo della legge 194. Poi ci sono invece tutti i pezzi che sono già dentro le istituzioni, che purtroppo lavorano con la legge 194 e la usano contro i nostri diritti riproduttivi e sessuali. Faccio degli esempi, perché se poi il problema fossero solo i cartelloni, appunto, dici vabbè, li rimuoviamo, no? Ma abbiamo dei problemi più grossi. L'articolo 2 della legge 194, ad esempio, dice che le regioni possono siglare con le associazioni che aiutano la maternità difficile degli accordi specifici, e che queste associazioni possono così rientrare in ospedali e consultori. Ora, che cosa è successo? Cosa ha fatto il Movimento per la Vita? Proprio quello che si chiama Movimento per la Vita, no? Noto molto bene, quello nato nel 1975, ha fatto un'operazione di entrismo notevole grazie a questo articolo 2, ha siglato le convenzioni e ha aperto i cosiddetti centri aiuto alla vita, la cui sigla è CAV, il cui acronimo è CAV. I centri aiuto alla vita in realtà sono luoghi quasi confessionali all'interno di consultori ospedali che dovrebbero essere laici, e invece le donne arrivano nei consultori per richiedere l'autorizzazione all'IVG o tutta una serie di informazioni legate alla libera sessualità e si trovano di fronte dei cattolici neofondamentalisti che le convincono a non abortire. Hanno addirittura dei progetti finanziati con fondi pubblici che si chiamano progetti Gemma, con i quali, dando questo contentino economico che sono 160 euro al mese per i primi 6 mesi di vita del bambino, con i quali cercano di distrarre le donne dal vero problema, che poi è lo vuoi o non lo vuoi un figlio, facendogli il discorso del sostegno economico. Ora, se ci fai caso, queste paroline, queste sigle, acronimi, CAV, Gemma, sono in realtà molto vicine a quelli usati dai movimenti delle donne, ad esempio, e dai femminismi. I progetti Gemma sono anche dei progetti nell'ambito degli studi di genere. I CAV sono anche i centri antiviolenza, no? Quindi c'è questa operazione da parte loro che, se vuoi, è nominalista, ma se vuoi è anche, è di un nominalismo strumentalizzante, come dire, no? Loro vogliono un po' occupare tutti gli spazi possibili, perché l'obiettivo è sottrarci enormi pezzi di libertà, e su questo dobbiamo essere molto vigili, dobbiamo essere in grado di individuarli. Ricordo degli appuntamenti, se volete approfondire questi temi, il 22 maggio alle ore 18 al foyer del Teatro Comunale in Piazza Verdi, con la Biblioteca Italiana delle Donne, l'Associazione Orlando, teniamo appunto una giornata sulla legge 194, e il 26 maggio alle ore 16 in Piazza Nettuno, non una di meno Bologna, dà appuntamento a tutte e tutti per il corteo che appunto chiede ancora più diritti di quelli pseudo garantiti dalla 194.